poi ritorna calma piatta. Le riforme stanno uccidendo l'educazione, i giovani si ribellano festeggiando, occupando e annullando la lezione. In ogni caso vince chi non vuole che si sparga conoscenza. Tre monti di sabbia che non voglio che sotto la loro terra si germini.